Ah, se ero proprio come incazzo, non ne dico manco a casa, niente. Idem a me, guai se ti sentivano, mamma mia, a parte che non ne dicevamo, non è mia consuetudine, ti può capitare a cacchio, cose così, però di dire parolacce no, assolutamente a noi non esiste, guai a casa nostra te ne aspettavano le gambe, ma adesso da adulto pure, io non ne dico. Posso dire qualcosina così simpatica, ma no, c'è gente che ce l'ha come virgola la parola. Anche il fatto di parlare dialetto a casa non si usava, si parlava solo italiano. Il dialetto non esisteva a casa mia, io lo parlavo fuori con gli amici e cose, però a casa parlavano solo italiano. No, quello no, è esattamente il contrario. A casa nostra mio padre è sassarese, noi in officina, io, ma adesso come adesso parliamo tanto sassarese. Sardo io non so niente, pur essendo mio nonno di origine di un paese qua vicino, di Florinas, anche se è sempre stato fuori per questioni di lavoro, però io non sono a parola a me le cose elementari, magari fesserie, però se tu mi dicono, infatti molte volte, ma è possibile tu che sardo sei, che non sai parlare il sardo, perché siamo l'unica città insieme a Sorso e Porto Torres se parliamo di sassarese, gli altri parlano tutti il sardo, in tutte le altre zone, soprattutto di quante parlano il sardo, parliamo di cittadine, dai. Perché se non li attaccano a noi parla il sardo, te ne vai a Itri, Olmedo, Uriti, tutti quanti, Ossi, tutti il sardo, gli unici siamo noi, il portatore del Sorso, anzi devo dire il portatore se lo pagano ancora peggio di noi, più frequentemente in famiglia, noi adesso le famiglie nuove magari qualcuno sassarese non lo parla, ma il portatore è assolutamente più di noi. E anche Castel Sardo. Come? Anche Castel Sardo parla tipo sassarese, là. No, già, è una specie di gallurese sporcato, no, sassarese è solo uno, mia, l'Argentiera, puoi andare a Fintino, paesettini così, località piccole, però parliamo di comuni, Castel Sardo parlano una specie di gallurese stropicciato, con delle, come si chiama, delle origini magari sporcate per dire da altre lingue, da altri dialetti, però sassarese no. Sì, vabbè, non è sassarese, ma si assomiglia, dai, non è sardo, capito, ha detto che gli altri parlavano solo il sardo, no? Non è sardo quello che parlano a Castel Sardo. Sì, no, quello è vero, una specie di logudorese, dai, lo chiamano così, è una, diciamo, la vera origine forse è quella lì della lingua sarda, il logudorese, poi ci sono tutte quante, se tu ti sposti verso il centro, verso la Barbagia, ne parlano un altro, te ne vai verso il Cagliaritano, ci sono delle influenze di tante, di altre lingue, vabbè, l'Alghero parlava in catalano, però se tu te ne vai verso l'Oristano, è già diverso il sardo che parlano da Oristano rispetto a quello che parlano a Tempio, Perfu, cose con le zone lì. Vabbè, certo, si assomiglia più al cagliaritano quello che parlano gli stati. Se tu vai in Corsica, con il corsicano, si assomiglia molto al sassarese. Io mi sono trovato una volta, siccome io francese non so dire neanche ma, nel senso merci, cose del genere, bonjour, cose del genere, piccolezza, proprio zero. Mi trovo in difficoltà di lì, perché quelli, l'inglese non lo conosco, io qualcosa d'inglese riesco a farmi capire, non dico che lo parlo, ma mi faccio capire, zero assoluto. E c'era questo professore che insegnava la lingua italiana ad Ajaccio, e lui parlava bene l'italiano, e poi parlava in corsicano, e lui quando parlava in corsicano io parlavo in sassarese e lui mi capiva benissimo. Sì, è simile, ho sentito anche qualche canzone in corsicano che è simile a sassarese. Quel programma che mettono Radio del Golfo qualche volta, adesso vabbè, quello a Pinuccio, non mi ricordo come si chiama, quello che prima era Radio del Golfo, adesso era Radio Venere, quello lì mette delle canzoni corsicane, io qualche volta capita di sentire, ma ce ne sono carine, dai, belle, sono molto più impegnate come canzoni rispetto alle nostre, perché ne hanno fatto un gruppo, Cane e Pucci adesso si mettono e fanno canzoni sassarese, vedi, hanno rovinato la cultura sassarese secondo me, perché sassarese era sino agli anni 80, poi dopodiché tolto Giovannino Giorgio, qualche piccolissima, adesso si sveglia la mattina, uno si mette a scrivere canzoni, a scrivere, perché la musica è sempre la stessa, batterie, cagate varie, strumenti digitali, però non è più sassarese, ai tempi di Ginetto Ruzzetta, tutta quella gente di Tony del Drò, quella è la musica sassarese, dove c'era la chitarra in evidenza, una bella voce, adesso si sveglia uno e pone a cantare in sassarese, come diceva Ginetto Ruzzetta, a scrivere è facile, però a comporre è molto più difficile. Vabbè, Beh, quelli sono stati i vertici alla cantone sassarese. Adesso sono tutti ragazzotti, sono tutti gente giovane che fa queste canzoni. E Maglia ce l'erano anche Bellina che hanno fatto, dai. E un raro di rabbino. Assolutamente, io sono appassionato della cultura sassarese, quando trovo qualcosa, mercatini, cose, spiglio di tutto, tutto quello che riguarda Sassari, Sardegna un po' di meno, c'ho tante cose, ho trovato un libro, anzi ne ho preso due, uno a me e uno l'ho regalato a mio fratello, della musica sassarese, ci sono tutti i gruppi musicali sassaresi dagli anni, diciamo dal dopoguerra, perché la musica sassarese è iniziata fine anni 50, dai, gli albori erano di lì, le origini di lì, e ci sono vecchie etichette musicali sassaresi, vecchi dischi, copertine, è bello, ci sono tutti, senza arrivare a questi di adesso, vabbè, forse arriverà agli anni 90, da Giovannino Giordo. E tu invece c'è proprio la storia, vedi le canzoni storiche sassaresi, che sono veramente belle. Adesso vedi, si sveglia una mattina e ti fa la canzone perché il figlio è qua e ti racconta la storia della famiglia sua. Non è più cosa cultura sassarese. E poi c'ho tanti libri, tanti miei, proprio avanti ieri ho prestato a un amico, questo è un professore universitario, gli ho fatto, per lui un grande appassionato, ma grande, e gli ho prestato dei libri, lui si è detto se li legga e poi me li restituisce, mi raccomando. Vabbè sì, ma anche a me qualche cosa mi piaceva, prima ascoltavo anche alla radio le canzoni sassarese, poi ho smesso perché non piacevano a mia moglie, ho smesso di ascoltarle perché dice che le sapeva di rozzo, di queste cose qua, capito? Quindi non le voleva ascoltare. No, io le ascolto. Allora, sabato mattina alle 11 a Radio del Golfo, adesso lo fanno registrata, non c'è più lo speaker, perché prima c'era lo speaker, che adesso la domenica mattina è Radio Venere, sino prima rimaneva sino a luna, dalle 10 a luna, adesso fa dalle 10 a mezzogiorno, poi da mezzogiorno a luna è registrato, mettono la non so più di Sassare, però no, tu vedi gli ascoltatori, quanta gente l'ascolta. Naturalmente su 10 canzoni che mi piacciono ce ne sono 3 perché c'è un sacco di mondezzina, però ogni tanto giri quando non sto facendo niente, prende e va. Poi mi sono fatto delle compilation, vabbè, ma basta che entri su internet, ti scrivi il nome del cantante e ti prendi e ti ascolti quello che vuoi tu, non c'è problema, però è sempre una bella cosa. Mentre la canzone sarda, la musica folk sarda, non per dire, sarà anche meglio, per certi versi ci sono dei grandissimi cantanti, però non lo apprezzo, non mi piace, solo non riesco a ascoltarla io, a parte quelle canzoni tipo Vade Lontana o quella canzone Non Potrò Riposare, quelle canzoni lì che sono super belle, però molte canzoni non ci riesco a ascoltarla. C'è anche quella, aspetta, che era un bel bella, che l'avevamo fatto il coro di Usi, come si chiama? Vendetta, hai mai sentito? Te lo stavo dicendo, mi sono dimenticato, Vendetta, hanno chiesto un fratello bellissimo, una canzone, proprio una bella storia quella. Quelle lì sono delle poesie, sono delle cose spirituali, cioè lì sono storie vere, le hanno fatto la canzone, perché non potrò riposare, dimmi se non è una canzone, hanno detto, vabbè, a parte che dicono tutti la più bella canzone che abbiano mai scritto, ma tu se sentivi quel guasto di Panariello, quando c'era Andrea Parodi insieme ad Anna Oxa, ha cantato quella canzone a Rai 1, ha detto secondo me una delle più belle canzoni al mondo, lo stesso Gianna Nannini, quella canzone che l'ha cantata lì al concerto, quando è venuta in Sardegna, l'ha cantata lì dal vivo, ha detto secondo me la più bella canzone d'amore della storia della musica, detto da una cantante a livello mondiale, non è poco. Sì, l'ho sentita anche a Panariello, l'ho visto su internet quando c'era Andrea Parodi, a me ogni volta che lo vedo mi scendono le lacrime, chissà perché mi ricorda sempre l'ultima volta che l'ho vista a Porto Torres, che non era più lui, non sembrava manco lui. Io Andrea Parodi lo conoscevo perché andava a bere lì a Cristallo, molte volte andavo a consegnare, io lo trovavo lì al bancone per vendersi il caffè, capito? E lo conoscevo proprio di persona. un grande, una voce da paura. A livello maschile non ce n'è, in Sardegna non ne abbiamo avuto, anche a livello italiano pochissimi uomini e voci maschili a quel livello lì, con quelle intonazioni e con quelle, quei cambi di tonalità, pochissimi. In Italia pochi pochi, sulle punte della dita li conti quelli lì. Però ti devo dire una cosa, io ho visto, hanno cantato Non Potò Reposare, non so se la conosci, penso di sì, Maria Carta, l'hanno cantata insieme. Se tu senti a Maria Carta confrontata a Andrea Parodi, tu dici ma questo sei un pivellino, gli ha fatto 10-0 già. Cercatelo se ti capita, Non Potò Reposare, Parodi, Carta, è una cosa da paura. Sì, Maria Carta era bravissima. C'è quella Maria Giovanna, come si chiama, quella lì, ho sentito a Portotto, è scappato, quella che ha i capelli lunghi lunghi, adesso non mi ricordo come si chiama, Maria Giovanna, non me lo ricordo, Carta o Cano, non mi ricordo come si chiama, quella lì è molto brava lo stesso, cantando le canzoni sane. Maria Giovanna Chechi, bravissima, però è un po' pompatina, perché quando diventi strada a me non mi piacciono più le persone, devi stare sempre coi piedi per terra, brava, tutto quello che vuoi, però ce ne sono anche meglio di lei. Allora io ho conosciuto un professore a livello mondiale di università, questo ha fatto dei iscritti a livello mondiale, hanno fatto dei seminari in tutto il mondo, e questo studia la voce umana, è una cosa, una scienza quest'uomo, l'ho conosciuto perché è venuto da me in officina, questo è abbastanza presuntuoso, però nel suo campo non ce n'è, e lui ha fatto il raffronto di tutte quante le voci, nel senso lui c'ha da Amedeo Gilli, cioè tutto, lui studia la voce umana, e lui ti dice questa voce è fatta da questa persona qua, ha avuto per dire questo problema fisico, cioè lui ha dei programmi fatti da lui, programmi di elaborazione del suono, cioè tu non ci parli con quest'uomo, non ci puoi, cioè il DNA ti fa il DNA della voce umana questo qua, e lui ti dice questo qua in una famiglia probabilmente c'era un gemello, in questa famiglia probabilmente c'erano anche delle figlie, lui studia tutte queste cose, queste coincidenze, ha fatto un programma, e se tu cerchi su internet questa persona, a Barcellona hanno fatto un seminario studiando le sue tesi, questo è un cranio, e lui ha studiato la voce di Maria Carta, dice non c'è una donna di tutte quelle che ha visto lui, nessuna al mondo, che ci aveva un cambio di tonalità dal basso sino all'acuto come Maria Carta, dice una cosa spaventosa, nessun uomo, dice, è riuscito a raggiungere i livelli suoi, uomo maschio, dice è impossibile perché le donne riescono a salire più in alto, dice di quelle che ha esaminato lui, che era immaginato da esaminato da Baglioni, cosa, come si chiama quello siciliano, Battiato, tutte centinaia e centinaia di voci di tutti i livelli, esaminate, detto quello che c'aveva Maria Carta nel mondo pochissime gente. Vabbè, io sono del parere che anche Andrea Parodi non c'è stato più nessuno che l'abbia sostituito, aveva quella voce melodica proprio qua, era una cosa bellissima, ascoltare la voce sua era proprio una cosa piacevole, una cosa inspiegabile. Io andavo a tutti i concerti che facevano qua a Porto Torre, Sassassa, Gli Punti, eccetera, sono andato diverse volte, l'ho visto cantare quando era sano, però l'ultima volta l'ho visto con questa sacca appesa, sicuramente era ossigeno, questa sacca appesa che ci aveva, ha detto, alla fine ha detto, beh adesso ragazzi l'ultima canzone perché non ce la faccio più, andiamo tutti a nanna, me le ricordo sempre bene le parole che ha detto. L'ultimo concerto lui l'ha fatto a Cagliari, l'ultimo della sua vita, che poi era morto subito dopo, e c'era la moglie, è salita la moglie, era una tristezza, forse c'è ancora quel video, se lo guardi su internet c'è ancora, ma di una tristezza, perché ha detto non ce la faccio più, non ce la faccio più, nel senso ho dato tutto, come per dire questa è l'ultima cosa che posso fare, non potrò più cantare, infatti qualche, non so se un mese dopo o due mesi dopo è morto, è stato l'ultimissimo concerto che ha fatto, ma della Parodi era di una persona che l'hanno sfruttato altre persone, diciamo, perché lui era il leader quando c'era le aziende, però non ha mai dimostrato questo fatto qua, nel senso di mettersi in mostra come per dire le aziende sono io, non si è voluto mai sovrapporre agli altri, e quella è una cosa molto importante, è un segno di grandezza della persona. Io ti posso dire, l'ho visto dal vivo quando ha fatto l'apertura dei concerti alla Torres di gruppi famosi internazionali, aveva fatto lui l'apertura, un mostro, cioè la gente che lo ascoltava diceva questo da dove è uscito, nel senso non lo conosceva neanche. E poi ho visto un concerto a Platamona, aveva fatto la canzone di Sting, Russian, se non so se te la ricordi, che si parlava della guerra fredda, Gorba, Khrushchev, eccetera, Mr. Khrushchev, eccetera, eccetera, adesso non te la voglio sentire, e ha cantato quella canzone, meglio di Sting, era una cosa, ti venivano i brividi di ascoltarla. Sì, ci credo. Era amico di mio cognato e mi ha detto che era anche un bravo pescatore subacqueo, che pescava certi pesci allucinanti. Infatti te lo volevo aggiungere, grandissimo, considerando che non aveva fisico, che la massa, la massa polmonare non era grande, ma faceva pescate a oltre 30 metri, ma tranquillamente, l'aspetto a 30 metri non è parte di mio cognato, lo conosceva perché è capitato qualche volta di andare a pescare, ma ha detto era un mostro, considerando si fumava non so quanti pacchetti al giorno di sigarette, era una cosa spaventosa, eppure dice c'aveva una prestanza atletica oltre che vocale. Dice la paura, considerando che non era, che era un grande fumatore, poi non era grosso, perché uno se scende a 30 metri deve avere anche immagazzinare aria, invece riusciva a gestire bene il fiato con quel poco che aveva. Grandissimo pescatore, e prendeva anche grosse prede, ceni e cose che si trovavano ad alte profondità, e lui ne ha preso più di una. Riprendi? Sì, sì, è vero, perché Marco, mio cognato, lo frequentava, addirittura sono stati a scuola insieme, a Nautico, quindi lo conosceva molto bene, ci frequentava, e mi ha detto che era un grande pescatore sul banco. Guarda, a parte il pescatore, lui c'aveva anche un gommone, c'aveva una lavorazione, la paura, quel gommone lì, con quel motore lì, c'aveva il motore identico a quello che c'avevo io, e quello che gli ha modificato il motore, siamo carissimi amici proprio ieri, sono andato da lui, mi ha prestato un attrezzo, una persona di una certa età, quasi 80 anni, e me l'ha fatto esattamente come l'ha fatta, dice Mita, lo faccio esattamente come l'ho fatto da Andrea Parodi, ha detto, diventerà una bomba, però dice, te lo dico già in partenza, ti dura poco. Nel senso, prestazioni allucinanti, però è durato una stagione, poi si è perso. Perché sforza il motore, è normale, se gli ha fatto delle modifiche, il motore sforza di più, è come nella Vespa quando la trucchi in grippi. Ma tu devi vedere i miglioramenti prestazionali, a parte dal rumore te ne accorgivi, ma il consumo è aumentato esorbitante, e la velocità dell'elica, la rotazione, il regime di rotazione del motore, vedi, arrivava a 6.000 e lo portava a 8.000, cose così, motore, tutte le parti in movimento erano stressate, infatti dopo un po' finito tutto, però ho avuto la soddisfazione di dire, me cavolo, avevo un motore preparatissimo. Mi ha detto, cosa vuoi fare? Lui ha detto, quanti cavalli ne vuoi tirare? E ha detto, tiri più che può, tiri. Lui ha detto, guarda che qua poi si rompe. Ha detto, vai. Non si è crepato del tutto, però ha dato, per dire, 100% di prestazioni per una stagione, e la stagione dopo era al 50%, meno di quando era originale. Se sei qui per mezzo al mare ti voglio vedere, Roberto. Allora la paura già, ti sto dicendo, quando l'ho messo, siccome col GPS, la velocità, che cos'è questa cosa, spaventoso, ma è migliorato dal giorno alla notte, migliorato, le prestazioni sono migliorate dal giorno alla notte, come prendi una 500 e poi gli metti un motore di una Lamborghini, così era una cosa da paura. Le prestazioni di un motore della corsa ci aveva, l'ha portato naturalmente alla cilindrata, però è durato pochissimo, però mi sono divertito, da, quando facevi le gare, perché noi da ragazzini ci avevi la gara di chi è più veloce, non è che dici l'affidabilità, tieni male, motore, era solo per correre, uno si comprava il gommone per correre, come quando c'avevi la Vespa, il Ciao, Ambretta, mica te la compravi per correre, dovevi fare le gare perché era più veloce. Sì, adesso che motore ci hai messo? No, la Balca, io c'ho la Balca, anche se l'ho tirata in secca da tanti anni, ho 70 cavalli, ma la bomba, quel motore è un Johnson, che poi sono più di 70, sono 75 cavalli all'elica, ma da paura con la Balca camminava, uno scafo da competizione, però adattato al turismo, ma con quelle potenze lì non ce ne sono di barche che camminano più di quella, un Tullio Abbate, pure campione del mondo, ha vinto non so quanti titoli mondiali di velocità, e lo scafo è suo, la carena è di Tullio Abate, poi sopra gli hanno messo la coperta di un altro cantiere, però la cosa non tocca l'acqua con la barca, era una cosa a parità di potenza, non ce n'è per nessuno, non ce n'era, adesso magari sì, ma all'epoca non ce n'era. C'era sempre il gioco rotto? No, l'ho salita da tanti anni già, quando hanno fatto la prima volta era partito Norvegio, la sorveglianza non se ne è accorta e mi stava rovinando la paratia laterale, meno male ce ne siamo accorti, l'ho lasciata di lì, poi hanno fatto due furti, la prima volta me l'hanno fregato l'elica, la competizione costava un'esagerazione, l'avevo verniciata di nero per non farmene accorgere, perché siccome era in acciaio, un'elica, guarda la cifra la paura, costava più l'elica del motore. Aveva prestazioni impressionanti, l'avevo verniciata di nero per non farmi, l'ha detto verniciatela se no te la rubano, e qualche giorno prima ho detto cavolo, ne sta uscendo la vernice, l'avevo verniciata, ritorno dopo qualche giorno, detto, me l'hanno rubata, detto, non è possibile, c'avevo l'originale, lo stesso funzionava bene, ma è un'altra cosa, ci ritorno un'altra volta, dopo 15 giorni, tu sono entrati là, li ha tagliato i tubi, hanno rubato tutta la benzina, siccome ci ha salvato gli antenna, hanno fatto un po' di cose, alla fine ho detto, io porta lassù, da allora non l'ho più usata, non mi sto più di tanto interessando a venderla, la sto quasi regalando, però quest'estate la voglio tirar fuori, nel senso vendere, perché solo in mezzo ai piedi, ma caccare le motore, un prezzo quasi da regalo, stracciato, il primo che viene se la porta via. Lo so, le rubano meglio, roba produttore, anche batterie, tutto di più. Tu pensa che io, quando stavo lì a pescare di notte, ho visto delle manfrine allucinanti, arrivate a questa imbarcazione, questo gommone, sparato nel porto, subito dopo è arrivata questa macchina, gli hanno dato il pesce, la macchina se ne è andata via subito e loro sono ritornati al largo, sicuramente rubano dei palamiti. E lo dirà lui, noi i parametri, vabbè io sono anni che non ci vado più, me ne è passata la voglia, ma dove stavamo noi quasi tutte le sere si buttavano i parametri, era una cosa di lì, ma c'era un periodo facevano razzia, andavano, c'era questa barca che poi non riuscivi mai a beccare, una specie di motoscafino nero, tutto verniciato di nero, senza luci, il motore nero, ecco, si tentava e non so quante volte la vedevamo entrare in porto questo qua, e quante volte si andava a controllare le barche, lo vedevi di notte tutto al buio, che lui entrava, questo qua tutto di nascosto, con il pesce e coso, vabbè un poveraccio, stava sotto Ponte Romano, gente di lì, non so chi erano, gente poveracci, dai, gente tipo zingari, dai, cose così, e avevano, si vedeva il pescato, però andavano a furarlo dai parametri. A me una volta solo per una pescabile cosa mi è capitato, praticamente siamo andati al molo a pescare, al molo che c'è la zona industriale, e peschiamo sempre bene lì, peschiamo pesce di fuori, da fagilli, belli triglione, orapi, di tutto, e il giorno non beccava nulla, e ci siamo messi a cercare i gamberiti, quelli che stanno attaccati nel molo, e con il praticamente col copo li prendevamo per vedere se stavo cambiando esca, per vedere se era il tipo di esca che non andava. Abbiamo visto questa cosa, la tiriamo su e c'è la rete da una parte all'altra del molo. E via, avevo fatto un pesca miracolosa. Ah, lui sì. Se non la può mettere, se entra una barca lì si sfascia tutto. Sai perché le nasse, quante ne hai via? Non hai mai visto nasse all'interno del porto? No, quello no. Come no, non hai mai visto le nasse? Le nasse? Le nasse dentro il porto, attaccato al molo, sotto di lì ti vedi dei filaccioni, controlli, ci mettono un granchio dentro, una sardina, hai vedi roba dentro, a parte polpi e cose del genere. No, io non ne ho mai trovato nasce, ho trovato una polpara invece, una polpara attaccata a un anello di quelli che dove attaccavano le barche, era attaccata lì e messa a buio. Io ho visto questo cavo, l'ho tirato su e ce l'ha polpata. Guarda già, dentro il posto, all'interno dove stavamo noi, era una cosa normalissima le nasse, ma non una, quattro, cinque, sempre pieni, molte volte non veniva nulla, però la maggior parte delle volte c'era sempre roba, e ci le mettevano di lì all'interno, ma non so quante ne vedevamo di queste, ce l'avevamo pure qualcuno di Nassa, qualcuno ce l'hanno regalata, ma quella fine ha detto ma cosa me ne faccio, lascia perdere. Io mi diverto, il mio divertimento era andare a prendere i pulpi con una sistema ballerina che mi aveva detto mio padrino, lui era Porto Torrese, figlio del pescatore. Ma non sai quanta gente ho insegnato a pescare con quel sistema lì, già. Ne ho detto anche a Genova, li ho mandati, quel sistema lì è, non perdi niente, ti diverti e pigli, perché è una cosa micida. C'era un pescatore pescando all'Alghero, mi stava parlando, sono tutti pescatori, stava pescando, ho detto ma cosa vuol fare? Così non fa, te l'ho spiegato, lui mi ha ringraziato, già me la faccio quel sistema, è un sistema micidiale. Ma con la zappa di gallina sei? No, io ce l'avevo la zappa di gallina è l'esca, è un sistema che funziona al contrario, tutte le polpare funzionano tipo carro armato, dai che ce l'hai giù, gli ami, è così, è vero? Sì. Questa qui funziona al contrario, rimane a testa in su, il polpo sale su sopra, sono due filaccioni, suona con due fili, bisogna calibrare tutto, poi si mette, nel fondo scorre il piombo, ci metti un piombo da mezzo chilo, dipende dalla profondità che fai, raschia il forno, il piombo, usi quelli a punta così scorrono meglio, li fai girare lì, il polpo è molto curioso e tu gli fai una specie di coso, di ombrello, chiamiamo un ombrellino fatto con gli ami, però ci vogliono ami grossi, si usa un, come si chiama, un tondino, io lo faccio col tondino, però gli antichi lo facevano con la canna e col filo d'acciaio, anziché usare l'ame usavano il filo d'acciaio formato, ma tu devi vedere come si aggancia il polpo e non ne perdi uno, non perdi polpara e non perdi niente, perché è il polpo che sale da solo qua, non è che lo agganci tu, sale lui, la cosa bellezza è che quando ti sale il polpo tu lo senti tum, tum, tum, arrampicando, si arrampica a coso, poi come lo senti giri, si capovolge, si chiama la ballerina, si capovolge, ti lo tiri e lo ce l'hai già dentro, ma fai strage così. Vabbè, sono metodi magari che sanno gli anziani, come a me una volta ho preso una sipia e questo pescatore mi ha detto tu sai cosa devi fare adesso, quella è una femmina, è bella, è una femmina grande, la metti in una rete, la appendi al muretto in modo che non scappi e quella tira tutti i maschi, vedrai quanto ne prendi, 12 li ho presi il giorno. Vabbè, sono tu che dico, questa è fatta a Trentino a Medici, che vado sempre di lì, un posto tranquillo, piccolino, sono degli scogli, mi porto la maschera e faccio un giro, e c'era questo tipo, ho visto questa specie di motoscaffino, ho detto cos'è che sta grossa, un tipo c'è presente un motoscafo come forma, una zatterina, questo qua era collegato al GPS, tutto computerizzato, l'ha portato fuori, si è preso la lenza, l'ha portata fuori, a motore elettrico era, tirato fuori, dopodiché questo, come l'ha portato la lenza fuori, ma è uscito apparecchio, mi dire tutto scogli, tutto un macello, perché devi stare attento anche quando vai a nuoto, ci sono punti che l'acqua è bassa, devi stare attento, se non ci sono i ricci ti punti. Ha fatto uscire fuori questa specie di imbarcazione piccolina, marchetta, chiamava così, non so cosa possa costare un giocattolo del genere, cioè aveva, tipo c'è presente quando guidi i droni tu, quelle specie di joystick, cosa del genere, è uscito fuori, questo sarà uscito 200 metri, non lo so, ci sono scogli affioranti, di lì tutto pieno, ha spento, ha sganciato la lenza, io vedo questa lenza uscire, ma cosa fai di questo? Agganciata qua, è arrivato a un certo punto, si è sganciata la lenza, lui si è girato da un'altra parte, parlando, continuando, questo ha preso da solo, se n'è rientrato da solo, passando in mezzo agli scogli, tutte le insenature, tutti i pezzettini, mi ha detto, ma possibile che aveva memorizzato tutto il percorso che ha fatto, se n'è rientrato da solo, ma è una cosa fantascienza. Sì, ma quello che non capisco io, una volta che arrivi, non si aggancia l'amo a casa, da qualche parte, come fai a tirarlo fuori? E lo sanno so già, non lo so, mio padrino facevano queste specie di barchette a vela e me l'ha spiegato come arrivava di lì, non so come, che strattone, cosa faceva, tac, arrivava a un certo punto, si sganciava l'amo e ritornava indietro, ma una cosa, me lo stava spiegando però me l'ha disegnato, lui era figlio di pescatore, ma tutti questi trucchi me li ha insegnati lui, ma questo della barchetta, della ballerina, me l'ha insegnato un'altra persona, ma tu devi vedere quando l'ho fatto io, ne ho riempito tutto, dalle parti nostre tutti, perché me la chiedevano, ogni tanto li facevo, perché è una cosa che quando lo vedi dici cavolo, l'ha scoperta l'acqua calda, e poi sul continente a Genova, amici, quando l'hanno visto fammelo a me pure, deve avere un tondino di cose, il materiale sono tondino, di legno, un galleggiante di quelli rotondi che lo metti in cima al tondino, gli ami, si fa normalmente a 3 ami, lo puoi fare anche a 4 ami, io li facevo normalmente a 3 ami, c'è tutto, e poi tutto bloccato del filo di sottile, di se c'è quel filo cerato, non so se ce l'hai presente, che sono quegli impianti elettrici per bloccare tutto, e una lenza da muratore e un piombo, e ti esce una cosa che non è per di una, io non ne ho mai perso una di quelle. E io ne ho visto uno che cosa faceva, la mattina presto, alle 6 di mattina, sono andato a pescare a Platamona e c'era questo che ci aveva una corda in mano dalla battigia e ci aveva un galleo, un tipo una barchetta come stai dicendo tu, e sotto ci aveva tutti gli ami come il palamito. E camminava, però lo faceva camminando, camminava piano piano, questa cosa andava a largo col vento, andava a largo, e lui camminava, a un certo punto si vede questa cosa muoversi, lui abbigliando una licciastella, sta stata 2,5 kg così. Non lo so, ci sono questi professionisti, altre persone che fanno che te li vedi e dici, ma cosa si offendi? Ti ripeto, io ero al Gelo, quando ho visto questo signore anziano, che era non un ragazzino, uno pescatore, si aveva questo mare, ne ha visto, quelli consumati dal sole, e gli ha detto, guarda che lei è così, no, non fa niente, perché, ma io sempre qua, e te gliel'ho spiegata, lo sai, adesso me lo faccio, ecco. E quello proprio, diciamo, quello naturale, diciamo, quello che l'ha inventato, lo faceva con la canna e utilizzava dei pezzi di filo d'acciaio, li faceva a modiamo, perché non è necessario che ci sia una punta che penetri dentro, per tu col carro armato si qua serve soltanto sale su lui, piano piano si lega tutto quanto, a questa roba qua io gli mettevo un pezzo di straccio, una cosa così, la zampa di pollo mettevo, qualcuno dice mette la sardina, non c'è bisogno di mettere niente, perché lui è curioso, anche se tu non metti niente, il polpo saliva uguale, perché vedeva questa lente e si arrampicava, piano piano tu sentivi questa roba tum, tum, tum, tum, tipo quando ti tirano qualcosa, arriva qua sotto, il polpo, allora tiravi la lenza, si capovolgeva, quando era vicino a te, tac, lo prendevi, se non ti volevi sporcare io mettevo il corpo, perché se no tiri lo trattore e te lo buttavi direttamente dentro la barca, se no si mette sotto, prendi il corpo, tac, lo sollevi, non ti sporchi neanche, perché poi il polpo ne scende da solo. Io l'ho visto il polpo pescandolo con tipo delle anfore antiche, no? Però sono di quelle moderne fatte così, sono in plastica, e li buttano in acqua e il polpo se ne va dentro, loro li tirano su e pescano i polpi. Antonio, a voi. No, ma adesso c'è la dire, i polpi non è più come prima, c'erano amici miei, questo amico mio, tutte le mattine andava e prendeva 25 kg per volta, non uno, 25, prendeva, riempiva due di quei bidoni dalla tempera per verniciare, dalla pittura dei muri, due le faccia, e poi senta, tutte le volte 25, però alla fine, lo sai quanto spopoli così, i polpi fanno, ogni polpessa fa 10 milioni di cose, mette 10 milioni di uova, fai che ne salvino 1000, però se tu ammazzi tutte le polpesse, alla fine non viene più a Platamona, ne hanno raschiato anche il coso, la roccia, non so, di prendere i polpi, perché io li andavo sempre la mattina, mi buttavo la maschera, entravo e prendevo il polpo di lì a 10 metri dalla riva. Lui andava appunto a tramontana, di lì c'era l'imbarazzo della scelta, io quando andavo di lì dicevo, ma che cacchio se li prende tutti questi polpi? Erano le piattaforme piene di decine, decine, decine di polpi, in acqua bassa, avanti già. Sì, lì appunto a tramontana li andava anche a pescare, poi avevano chiuso il cancello dove entravamo noi. Ma io ero pescatore incallito, non dico di essere bravo, mai stato bravo, anzi, proprio a livello asino, però c'era mio cognato era bravo, andavo con gente sempre a pescare. Mi dice, vattene di lì, ero tutti sabati e tutte le domeniche, eravamo sempre estate, inverno, primavera, neve, io sono andato con la neve a pescare, con una neve proprio a febbraio tanti tanti anni fa, e il mare a me mi piace proprio prenderti la maschera, farti il giro, però no, facendo lo scemo, perché ci sono scelti che li vedo, io ho preso due amici carissimi, tutti e due morti, facendo, strafando in profondità importanti, qualcuno di notte andava, oh, io sono andato a volta mai più in vita mia andare a pescare di notte, perché è un incubo già, è una cosa, se non lo provi non te ne rendi conto. Io già l'ho provato. Sì, ma essere sperduto nel mare, tu non so dove sei andato, dove sei andato? Portoferro, Punta Negra. E che riferimenti avevi tu? C'era, noi eravamo in campeggio, avevamo le luci e cose, però già è un po' così, Io sono andato solo dritto, non è che mi sono spostato più di tanto, perché non riuscivo a dormire in campeggio. La mattina quando si sono svegliati hanno trovato tutti i polpi, i pesci che avevo preso, sono andato a pescare col fucile. Questa parla la pesca subacqua. Cosa? Pesca subacqua, non pesca lenta. Pesca subacqua, col fucile ti ho detto. Io non ho avuto fucile, ho avuto l'Arbalet Champion a due elastici, ho avuto il Ministero, il Medistero, il Medirref, ne ho avuto pochi di fusili, non so quanti anni sono stato a pescare, poi mi sono incastrato, non ci sono più andato. No, io all'elastico uno solo, per errore, perché appena mi tiro l'acqua la sabbia, mai più in vita mia non ne ho più preso, tu sempre il Medistero, il fucile reale era il Medistero, poi c'avevo il Ministero, tutti gli altri li ho provati tutti, anche quelli a molla c'avevo, me ne ho trovato uno da poco al mercatino, il polpone tu con la molla, mini saeta, cos'era? Io c'avevo il Mares a molla, ma si arrugginivano le molle, poi non andavano più, ma quelli a molla non servono a fare un casino. Quelli elastico, roba, io ti dirò di più, che l'ho usato, se non sparavo da lontano ti spaccavo il mugine in due senza anticipo, non gli davi manco anticipo, sai che al mugine si dà anticipo, non gli davi manco anticipo, rubinavo in pieno. Allora, mio cognato è pescatore professionista, ha fatto campionati italiani eccetera eccetera, lui normalmente usa gli arbalet, però lui pesca l'aspetto, tutte cose così, quando pesca in tana deve avere un fucile ad aria compresso, non serve a nulla le cose, perché ti spacchi le azze, lo sai quanto, come te le fai le azze? Noi abbiamo fatto le prove con tutti fuori dall'acqua, le velocità, la potenza, fuori dall'acqua, provando, mettendo tante cassette per vedere la penetrazione eccetera eccetera. Come velocità l'arbalet non ce n'è, perché più veloce, silenzioso, tutto quello che vuoi, va bene per fare aspetto, però se devi pescare in tana come pescavo io ci va solo il fucile all'aria compressa. No, il polpone era quando sei piccolino, 13 anni, mica ti dai il fucile all'aria compressa e ti prendevi quel fucile con la fiocina, tutto rugginoso, crack eccetera eccetera, però ti divertivi. Io sono andato una notte a pescare a Marrizza, se hai presente a Marrizza c'è una specie di franata, non c'era nessuno cosa visibile, luci, per dire, se vai dal portatore se tu vedi la terra ferma, vedi le luci, le cose. Io sono andato a pescare, c'era la mia compagna di allora, mia fidanzata, e ho preso una di quelle lampade che si portavano al campeggio, che sopra c'era la luce gialla, arancione, intermittente, e sotto la lampada normale elettrica. L'ho messa in cima a questa collinetta che c'era di lì, perché era tutto scuglio, ho detto non si sa mai, ho iniziato a nuotare, ho visto c'era anche la ragosta, per dire, ho trovato. A un certo punto non sapevo se stavo andando avanti o andando indietro, un'ora cercando di capire dov'ero, perso, ho detto qua mi tocca rimanere tutta la notte fino alle domani mattina, allora cercando di riposarmi. A un certo punto, non so come, per quale santo mi ha aiutato, riesco a vedere questo puntino lontano, questa lucetta, ed era quella lì che lampeggiava, e io stavo andando tutt'altra parte, io ho convinto di rientrare, invece stavo andando fuori, ma ero, non so quanto sono uscito fuori, ero stato a un chilometro fuori, e piano piano sono riuscito a rientrare, se no mi ero messo in mare. Ma pila subacquea non ne avevi? E cosa fai? Certo, quella pila subacquea, una torcia grossa, e cosa fai già con la pila, se tu non stai andando, che ti stai andando a destra, a sinistra, non hai orientamento. Lo so, è brutto, infatti io sono entrato perché non riuscivo a dormire in campeggio, io non riesco mai a dormire, uno perché c'avevo un'amica mia che ha dormito insieme a me e c'aveva la mano lì, e cazzo, avevo paura che magari pensasse che l'avevo messa io. Allora cosa ho fatto? Io ho preso, mi sono alzato piano piano, ho preso il fucile, sono andato a pescare la pila, la muta, tutto quanto, sono entrato dentro. La mattina quando loro si sono alzati hanno trovato tutto il pesce. Però noi ce l'avevamo l'orientamento, capito? C'era la luce, ce l'hanno loro che stavano ancora scuola stavano facendo scazziando, facendo, quindi c'erano le luci, già si vedeva, a voglia, io poi non mi sono allontanato più di tanto e c'erano gli scogli lì e sotto gli scogli ho pescato. No, no, qua non c'era niente già, perché loro ci avevano la casa dall'altra parte della collinetta, questa famiglia, e io sono sceso negli scogli per dire, ti posso dire, a Punta Tramontana, c'è presente Punta Tramontana, vai, il cazzessano forse riesci a prenderlo, tu fai qua, era buio pezzo, come quando sei in mezzo alla nebbia, in mezzo a niente, la luce io ce l'avevo, volevo bene, grande, una di quelle torce grandi, larghe, però guai, a rientrare domani, un amico mio, lui è rimasto tutta la notte in mare, è entrata la nebbia, non sapeva dov'era, alla fine si è fermato, dice, col pallone, ancorato, dice, aspetta, è entrato tutta la notte in mare, sino alle 5 del mattino, che uscisse il sole, perché dice, io non sapevo da che parte andare, e se ti trovi appena di corrente, ma male, sono uscito io, il mare era calmo, se ti esce con la correntina che non te ne accorgi. E manco mai non è molto assiderato. No, d'estate gli c'è caldo, l'acqua siamo intorno ai 23 gradi, 24, se c'è la muta ci puoi stare tutto il giorno, o come quest'estate che c'erano 28 gradi, mai vista una cosa del genere, al mare 28 gradi l'acqua di mare, io mai vista in vita mia. Lo so, perché io sono entrato in acqua e bolliva, era bollente l'acqua. Guarda che ero nell'acqua bassa quando mi facevo la pescatina, la nuotatina, no la pescatina non ne ho fatto, però prendermi nell'acqua, prendermi il sole, alla fine era budente l'acqua perché c'erano gli scuri scuri, l'acqua c'era stata secondo me 30, io ho l'orologio della temperatura, era più di 30 gradi l'acqua. Sì, e lì i pesci vogliono perché gli manca l'ossigeno a quella gradazione lì. E quest'estate ha fatto il record di temperatura. Io diciamo non è che sono con la barca, non sono uscito, anzi sono uscito due volte in barca a vela con un amico, ho fatto l'asinara, bellissima, un'esperienza troppo bella, tutto il giorno, dalla mattina alla sera, e poi sono andato tutta la zona di Orosì, Calagonone, Calamariolo, Calagorizè col gommone, una cosa, infatti ci ritorno se Dio vuole quest'estate, è stata una cosa da paura, veramente è bello, tutti i posti più belli del mondo sono di lì. E, come si chiama? Il mare di lì è uno spettacolo, però non sono andato mai, sempre nuotando così, mi metto la maschera, quindi non ne uso neanche, mi faccio una nuotatina così, ma l'acqua di quest'anno mi ha detto mio cognato, che lui va sempre e c'è tutto l'anno a pesca subacquea, mi ha detto come l'ha trovata quest'anno in vita sua, mai. In che senso? Il calore, la temperatura dell'acqua, 28 gradi, io ero arrivato a 26 gradi, la massima temperatura rilevata, lui è arrivato a 28 gradi, a mare di fuori, non a mare di dentro. Figurati che di solito quando vai lontano, più scendi e più freddo è l'acqua. Parliamo temperatura superficiale, certo se vai a 15-18 metri magari la temperatura sarà 15 gradi, 16 gradi, però in superficie c'erano 28 gradi quest'estate, a mare di fuori, per dire all'Argentiera, a Punta Scorno, forse così, andare di lì verso la Ginara, la temperatura era 28 gradi, il picco ha fatto quest'estate. Sì, sono andata una volta a Plattamona e c'era un caldo da morire, d'acqua, non si poteva stare, ha fatto la bolletta. E vabbè, uno va per rifrigerarsi, invece lo trovano bollito. Non lo so. E poi quando c'è l'acqua troppo calda, così in piscina mi è capitato, la piscina di lì a Trentino, c'era una piscina con l'acqua di mare, era fastidioso, alla fine ti dava anche fastidio, perché ogni tanto andava a fare una doccia fredda, perché era talmente calda, perché la piscina a un certo punto accumula il calore, anche se l'acqua di mare c'era il ricambio, però l'acqua era talmente calda, è tipo quando entri sotto una doccia troppo calda, che ti dà fastidio, ti stanca, così era questa piscina. E poi l'acqua calda scioglie le alghe, insomma, fa l'acqua verde, perché infatti a Plattamona succede così, perché si sciolgono le alghe, la sera diventa tutta verde l'acqua, perché la mattina è limpidissima. Guarda, l'acqua dove stiamo noi, acqua corrente, si chiama proprio acqua corrente perché c'è un ricambio di acqua continuo, quindi sono anni e anni che io non la vedo più l'acqua, quelle alghe, ti ricordi quelle alghe che erano tipo cingoma, gommose, che diventava, però non c'è da tanti anni, mi trovi le cose, le posidonie, qualche cosa del genere, però quelle alghe che rimanevano tipo il corallo come forma, però erano verdi, tutte gelatinose, quelle sono anni che non le vedo più. Beh, è quello di forma, che aveva una forma arrotondata. C'era una cosa tipo una pianta, dai, un arbusto, una cosa del genere, non l'ho più vista. E ti posso dire, non per vantare, l'acqua di quel pezzettino di lì, di tutto il litorale platamone, è la più pulita di tutti, perché è protetta da quella specie di torretta che c'è di lì, che ti tiene le correnti, perché se tu te la fai dall'altro versante, dalla torretta, l'acqua molte volte è bellissima, ma certe volte tutta la schifezza delle scariche delle navi, delle truppe di lì, in quelle spiaggine che si formano ogni tanto, prima della torretta, prima parlando verso Porto Torre, io intendo, dopo la torretta verso Porto Torre, cioè, e noi all'interno nostro dove c'erano i casotti, lì l'acqua è quasi sempre pulita. Lì. Io andavo anche alle roccette bianche, roba di seppia prendevo. Io andavo alle roccette bianche a tuffare di lì, anche a fare pesca a sub, ma io guarda tutto quel litorale, no? Non per dire, ma lo conosco come le mie tarre, devo dire sono anni che non c'entro più a pescare, ma di lì cavolo, tutto, noi facevamo un nuoto oppure col canotto, con una barchetta, andavamo di lì, ci ancorevamo davanti alle roccette bianche, di lì c'è una secca di lì, di 17 metri, 16 metri, da così. Ti ancoravi di lì, ti facevi tutto il giro, era pieno di pesce, di polpi, di tutto c'era. Poi adesso se vai è deserto. Per forza chi non pare i barametri, tutto pieno di reti, di quelle reti barracuda che metto, quelle fine fine. E anche quando vado a pescare io per dire, vabbè, lì la zona la conosco anch'io, la conosco non perché ho fatto pesca subacquea, ma la conosco perché vado a fare surf casting. Io scendo dagli scalini, non quelli dalla parte dove c'è fatta la casa a voi, ma quelli che ci sono prima, scendo dagli scalini lì, lancio dritto e lì ci sono degli scogli piatti, praticamente non ti fanno incagliare, tu vai oltre gli scogli e poi quando recuperi senti che il piombo passa sugli scogli, quelli piatti, però non incagli. Se tu vai, cosa ti posso dire, 10 cm più avanti stai sempre incagliato. Allora Gianni, io col pezzettino, a parte che ogni anno si modifica la morfologia del terreno, ne escono scogli che per dire 2 anni prima non c'erano, o 10 anni c'erano, prima c'erano, ogni tanto cambia, quest'anno già 2 anni che la spiaggia è enorme rispetto ai tempi passati, è diventata grandissima. Io di lì mi divertivo, andavo la domenica mattina o il sabato quando per dire, oppure quando ero in ferie, vedevo la maschera e ne riempivo a secchi di piombi, poi li regalavo a tutti i bambini, i ragazzi, era pieno di piombi, perché dicevo, ma come ti vai a buttare la netta qua, sei tutto scugli, buchi e coso, tutti strappavano, da fronte, dal presidio sino alla torretta, era tutto pieno di piombi, e bigliavo a quintare. Sì, lo so, ma io sapevo il punto, io gli ho preso anche una bella orata da 4 kg, 3 kg 8,50, l'ha presa esattamente, e l'ho presa lì, proprio dove c'è il separé tra il presidio militare, l'ho presa lì, andavo sempre a quel punto lì, dritto dalle scalini, scendevo e mi fermavo lì, boh, se c'era gente me ne andavo, no? Perché quello lì era il mio punto, mettevo 2 canne, una vicino all'altra, e andavo a bere così, tutta la notte me la facevo pescando, ho preso un bel razze pure lì. Allora, le razze, c'è stato un anno già, parliamo a 15 metri dalla riva, dovevi stare attento dove mettevi i piedi, perché c'erano centinaia di razze, non una, centinaia, era, non so per quale motivo, quell'anno lì, stiamo parlando 2011-2010, io non ho mai visto una cosa del genere, è tipo i paesi tropicali, quando ci mettono tutte qua, era pieno di razze, centinaia, non erano grandi, erano piccoli, tutto pieno, piattaforme di razze, cioè dove stare attento dove mettevi i piedi. E quella se ti pugni con la punta che c'è in coda, sono micidiali, sono tipo la fracina, se ti pugni liscia, una volta stavo pescando roba, prendo una tracina, sai che le tracine sono punti pungono, quindi io avevo il moschettone, ho staccato direttamente il moschettone e l'ho buttata in terra vicino alla canna. E sai quelle vecchiette che vanno a raccogliere conchiglie, quelle continentali, dove passa sotto la canna la tracina si è sotterrata, perché si sotterra anche con la sabbia così, si è sotterrata e già busto il berinato, gli altri chili. A te ti è mai punto la cosa, la lagna? No, a me no. A me mi appunto, ti posso dire, fa male. Conosco gente che ha rischiato di morire, prende, però queste platamore erano piccoline, quelle di fondale sono grandi, a questo qua viene saltata, pescando sul petto nudo, le appunto il petto, se lo portano all'ospedale muore, shock anafilattico, stava morendo questo qua, l'hanno preso e sono riuscito a salvarlo, una persona adulta. A me mi appunto sotto il piede, è come che ti filano un coltello caldo sotto, e tutti sbagliano mettendo freddo, invece devi mettere cosa calda, quando ti punge quelle cose lì devi mettere qualcosa di caldo. Allora io ho preso la sabbia con la molletta, sono andato, ho messo i piedi e piano piano sono riuscito a attenuare il coso, il dolore. E poi 2 anni fa mi appunto la medusa, sembrava che mi avessi fatto con un coltello un taglio, in primo momento non me ne sono accorto, mi giro, vi vedo la gamba, il ginocchio, l'altezza del ginocchio, della rotula, mi ha diventato tipo delle micro vesciche piccoline di coso, sembrava mi avessi passato un bruciatore sopra, ma non sai quanto era irritante e fastidioso, ed era una cagatina di medusa piccolina. La medusa appunto pure a me a stintino, era in acqua che mi baciavo con una ragazza, mi appunta la schiena, cazzo. Tipo come ti mettessero un fiammifero, cazzo. Ma non sai quanto bruciava. Poi c'era un signore che aveva l'ammoniaca fuori, mi ha passato un po' di ammoniaca e mi ha passato. Sì, perché l'ammoniaca è l'ideale sulla cosa, sulla medusa. E alla gentiera mi è capitato forse 2 o 3 anni fa, un paio di anni fa dovrebbe essere, dai. Ma tu vedi come mi ha fatto la rottura al ginocchio? Sembrava l'avresti bruciato quando c'è la pelle ustionata con tutte queste micro vescichelle piccoline, la cosa, vabbè, il dolore non era insopportabile, la tracina, cavolo, ti devo dire, faceva male, come che tu ti pestano un piede, che c'è un chiodo sotto il piede, e ti pestano con un martello sopra la parte sopra del piede, la pianta del piede sotto un chiodo e ti prendono a colpo di martello, te lo senti bollire questo piede, come la circolazione del sangue, è una cosa, una sensazione bruttissima. Gli anni si è fatto tardi, 22:38, io interrompo le trasmissioni e vado a guardarmi un pezzo di televisione prima di dormire, dai. Ci sentiamo quando vuoi, quando capita, con piacere, dai. Ti saluto anche eventuali qua amici in ascolto, che probabilmente c'è sempre qualcuno. Cuore di la parte mia, ciao ciao. Ciao ciao Roberto, grazie per il QSO, buonanotte, ci sentiamo, ciao.